Bene, io intanto ringrazio veramente perché c'è un rapporto nostro che si è costruito in questi ultimi anni, dopo le ultime problematiche del partito che abbiamo avuto, sostanzialmente si è costruito un rapporto veramente molto positivo, per cui noi possiamo essere veramente un punto di riferimento per ricostruire un punto di vista di sinistra in questa città. Però intanto volevamo fare un piccolo consultivo perché crediamo che bisogna fare una svolta in questa città, ci deve essere un'alternativa, non ci deve essere un'alternanza. Allora, dietro a questo ragionamento facciamo un attimo il punto della situazione. Noi abbiamo avuto questi ultimi 5 anni del sindaco Bruni, un atteggiamento arrogante, è stato anche superficiale, ha cambiato 7 assessori, 2 vice sindaci, sindaco e possiamo dirlo in questi termini, ogni 7 mesi un assessore ha cambiato, in sostanza in 5 anni questa è stata. Una giunta disarticolata, non ha lavorato come una squadra come dovrebbe lavorare, nello stesso tempo l'ultimo fatto la dice tutta rispetto al fatto che non c'erano soldi della neve, dopo 3 giorni sono saltati fuori i soldi per la neve. Cioè, in sostanza, l'assessore al bilancio e l'assessore alla viabilità non si sono neanche coordinati, non si sono neanche parlati. E questo ne paga la città che sta subendo veramente uno scempio rispetto al fatto che c'è una disorganizzazione mentale da parte di questa giunta. Una maggioranza che è stata penosa, voi tutti lo sapete. Io che ho fatto le varie sfiducie, che dopo le elenco sul punto di vista del lavoro che ho fatto, nel voto segreto si sono effettuate vendette personali che sono passate tutte le sfiducie che ho proposto io. Il PDL è allo sfascio sotto il punto di vista di tipo progetto della città, non si sa più qual è la testa e qual è la coda rispetto a quale città si vogliono improntare il PDL, che è il partito attualmente maggioritario. La Lega si è nascosta dietro alle difficoltà del PDL senza avere un minimo di incisività rispetto alle problematiche che hanno portato avanti in giunta e che sono state veramente di ruota di scorta di una situazione difficilissima. Di una macchina che non funzionava, che non ha funzionato, sono state la ruota di scorta. Poi, questa parte che allarga la questione dei fuoriusciti del PDL e della Lega che oggi si vogliono dare una verginità presentandosi come liste civiche e quant'altro, sotto questo punto di vista io credo che dovrebbero fare una cosa dignitosa, è quella di non presentarsi più, perché hanno veramente, insieme agli altri, hanno partecipato a una disastrosa amministrazione, perché non vuol dire discostarsi negli ultimi tempi per dire che io non c'entro niente le cose che ha fatto voi. Io credo che invece tutt'altro dovrebbero chiedere scusa alla città. Beh, l'opposizione, cosa possiamo dire? L'opposizione, io credo che non ha colto prima di tutto l'opportunità per mandare a casa Bruni nel 2009. Voi vi ricordate la vicenda del muro? In quel caso avevamo una buona opportunità. E questo non si è colto per ragioni che voi saprete, se volete dopo entro nel merito, ma però elenco proprio i punti dove Bruni nel 2009 poteva essere a casa. Un po' l'esempio che abbiamo avuto a Lecco. A Lecco hanno firmato i 21 e di fatto il Consiglio Comunale, cioè si sono dimissionati 21 consiglieri e di fatto il Consiglio Comunale ha dovuto chiudere e rifare le elezioni. Ecco, qui a Como non siamo riusciti a farlo perché ci sono state delle posizioni di una spaccatura dentro il PD e nello stesso tempo una posizione un po' anomala, tra virgolette, di Paco che non ha ritenuto opportuno di provare a mandarlo a casa Bruni con questo tipo di metodologia, perché loro erano per la sfiducia e la sfiducia si sapeva che i consiglieri di maggioranza che erano disponibili a dimettersi non erano disponibili a sfiduciare Bruni. Allora noi dovevamo cogliere quell'opportunità, non l'abbiamo colta e la città ha pagato un prezzo. Io credo che qualche riflessione qualcuno la deve fare su questo, perché non si può avere sempre ragione rispetto a queste scelte. Beh, personalmente io posso dire che mi sono dedicata anima e corpo, questo mi sembra che viene riconosciuto anche dagli avversari, soprattutto dagli avversari, perché mi hanno detto che era come prezzemolo, era sempre a tutte le riunioni, voi l'avete visto, non è che a me contava il gettone di presenza, però sapete che io ero presente in tutte le riunioni, e queste riunioni appunto per dare il meglio di me stesso dietro al fatto che, voglio dire, c'era da fare delle scelte. Beh, poi sapete che in Consiglio Comunale ho proposto 5 sfiducie agli assessori, che erano l'assessore Caradonna, D'Alessandro, Peverelli, Molinari e Cenetiepo, di cui 3 sono andati a casa, Caradonna, D'Alessandro e Peverelli. L'ultima è stata Peverelli, che è stata anche una cosa più genuina rispetto alle altre. Comunque, in sostanza, Molinari e Cenetiepo non ritengono di andare a casa anche dopo che hanno preso la sfiducia. Voi potete capire che un consigliere da solo riesce a proporre 5 sfiducie e tutti e 5 passano. Vuol dire che sono sempre stato dentro nelle problematiche e dove altri le hanno condivise. Noi sappiamo che poi il voto segreto si nasconde dietro tante cose, ma però, voglio dire, in sostanza le nostre proposte sono passate. Poi tra emendamenti, mozione, interrogazione e interpellanze ne ho presentati circa 1.300. Credo che nessuno abbia fatto tanto lavoro in Consiglio Comunale, nessun gruppo. Poi interventi preliminari, quasi sempre, ogni Consiglio Comunale ho sempre proposto degli argomenti che riguardavano la città, perché io credo che le preliminari è un punto fondamentale che va cambiato come regolamento, che ci sia più incisività, perché lì si portano in 3 minuti, 5 minuti i problemi della città. Le altre 2 questioni più principali, perché affronto solamente alcune questioni principali, è la... ricordate la questione dell'SPT, il CDA si è dovuto dimettere, voi sapete, quando era presidente Gandola, la vendita dei bus del turismo non è stata chiara, in sostanza la magistratura se ne sta occupando di quel fatto lì. Beh, voi ricordate, per chi ha seguito quella vicenda, quando il sindaco mi aveva detto se io ero matto quando chiedevo le dimissioni del consiglio di amministrazione del Gandola, poi dopodiché ha dovuto dimettersi di fronte ai fatti che sottoscritta ha portato avanti in quella battaglia. La stessa cosa per la Cade Industria, qui è molto la cosa mi ha toccata anche in termini umani, sensibili, di sensibilità rispetto al fatto, lì ragioniamo una 4 case di riposo complessivamente gestite appunto dal consiglio di amministrazione e qualcosa come un 250 dipendente. Voi capite che la cosa non è di poco conto, è una questione delicata. E la battaglia sulla Cade Industria, sapete, sulla questione dell'affidare le mense all'appalto, eccetera, e anche questa la magistratura sta facendo chiarezza rispetto a questa situazione, è chiaro che era una situazione anomala. E anche questo consiglio di amministrazione ha dovuto dimettersi. Io credo di essere stato un protagonista principale rispetto a questa battaglia, tant'è vero che non ho pensato solamente a sfasciare quella situazione che era ormai un degrado, quel consiglio di amministrazione e quella situazione come veniva amministrata. Ma però ho proposto, infatti, voi sapete, un paio di mesi fa mi sono incatenato affinché venisse nominato un nuovo consiglio di amministrazione e non si andava avanti con una gestione provvisoria, che lì necessitava proprio questo, e il sindaco invece giocava il sindaco, ma non solo il sindaco, anche la Regione Lombardia, a lottizzare i posti del consiglio di amministrazione dentro la Cade Industria. Da lì ho preso l'iniziativa perché mi sembrava opportuno, e tanto è vero, infatti me lo dicono, che se non ci sarà sta proroga, speriamo che ci sia la proroga che alla struttura in via Brambilla, voi sapete che verrà chiusa perché non è a norma. Allora io spero su questo ci sia la proroga, e questo è importantissimo per quelle persone. Poi niente, sulla questione adesso stiamo andando avanti con la battaglia della gara dei rifiuti. Voi sapete che dietro i rifiuti c'è un aspetto importante, economico, l'affare dietro i rifiuti, che in Italia si sta affrontando in una maniera anomala. Voi avete visto anche sotto Sant'Anna c'è stata la questione dei rifiuti tossici sotto nelle fondamenta di Sant'Anna. Però noi questa gara di rifiuti non riusciamo a portarla a casa. Voi sapete, ho fatto la battaglia che così come era improntata non poteva essere assegnata, perché c'era la questione della piattaforma ecologica che era di una ditta che partecipava alla gara, altri partivano svantaggiati. Oggi, senza farla lunga, oggi credo a qui a qui è qua, era cucito su Econodi. Come, sì, era cucito su Econodi. Infatti noi il cartello, mi sembra che parli da solo il cartello, 7 anni di proroga, basta regale Econord. Noi vogliamo una città pulita, vogliamo una raccolta differenziata come è stata votata in consiglio comunale, vogliamo arrivare fino a rifiuti zero, tanto per intenderci, ma se non si parte non si va, voglio dire, si rimane in questa situazione. La situazione della città è sporca, è trascurata, ecco. Allora dietro a questo c'è stata appunto quella che è stata poi la sfiducia a Peverelli, l'assessore all'ambiente. E non solo questo, perché voi sapete i giardini al lago, per chi segue le vicende del comune di Como, il giardino al lago era sempre previsto 1 milione di euro per rifare il giardino al lago, per sistemare il giardino al lago, e automaticamente nel consultivo venivano tolte, venivano spese per altre ragioni. Beh, questo io credo non è il modo né di amministrare e fare un bilancio, e non è neanche il modo di, voglio dire, programmare le cose. Ecco, poi l'altra questione sulle paratie, che noi riteniamo che sia un imbroglio, le paratie è stato un imbroglio ai cittadini, perché con la scusa di salvaguardare il lago dall'esondazione della piazza Cavour, invece la questione è che bisogna alzare 70 centimetri il lago di Como dal livello dell'acqua. Questo è il vero scopo. In sostanza, siamo di fronte a una situazione che non si sa quando i lavori terminano, per le difficoltà che erano oggettivamente anche prevedibili alcune, o perlomeno in gran parte erano prevedibili. Poi i costi stanno diventando sproporzionati rispetto a quelle che erano preventivate. E la stessa cosa i costi di gestione e di manutenzione dopo. Voi sapete che adesso, a posto del muro, che doveva venire col muro, eccetera, verranno delle pancone manuale, e lì aumenteranno il costo. Poi la manutenzione, quelle idrauliche che verranno di fronte proprio a Piazza Cavour. Beh, sostanzialmente noi crediamo che questo sia stato veramente un imbroglio ai cittadini, e questo ci costerà ogni anno, se verrà terminato quel lavoro lì, 100-150 mila euro di manutenzione, visto che si è giunta la manutenzione di fare il deposito anche di queste barriere. Allora noi pensiamo che se veramente riusciamo a vincere, dobbiamo porre un problema serio. Ferma le bocce, verificare se è possibile trovare una soluzione che non si, per completare, intanto per completare il lungolago, ma se c'è una sola ipotesi che si può non effettuare le paratie, noi siamo per percorrere questa ipotesi, perché questo farebbe risparmiare tanti soldi alla città. E nello stesso tempo ridiamo la città, ridiamo il lungolago ai cittadini. Quindi rifare questo. Il lungolago senza opere idrauliche. Esatto, rifare come avevamo già proposto noi sotto questo aspetto. L'altra questione è la cittadella sanitaria. Voi sapete che la cittadella sanitaria è importantissima, non ne discutiamo tanto su questo. Abbiamo votato un accordo di programma con l'ASL e con il Sant'Anne e con l'infrastruttura lombarda. Perché la cittadella sanitaria si insedia nel vecchio Sant'Anna, tanto per intenderci. Voi sapete che siamo stati quelli che hanno fatto iniziative per non far buttare giù un monoblocco, per non fare le speculazioni edilizie all'interno di quella situazione. Bene, siamo stati tra i promotori del referendum cittadino sulla questione della cittadella sanitaria, hanno votato circa 15.000 persone. Tenete presente, 15.000 persone sono molto di più di quelle che sono state le primarie del PD, e credo saranno anche molto di più delle primarie del PDL, tante per intenderci. Come? Chi voteresti le primarie del PDL? Ho da fare. Dovessi scegliere. Come? Dovessi scegliere. Ho da fare. Chi vincerà, secondo te? Chi vincerà? Ma io credo che non vincerà nessuno, perché vinceremo noi del centro-sinistra, perché saremmo impegnati. No, delle primarie. Ah, delle primarie? Delle primarie. Non lo so, veramente non è una cosa che mi appassiona, delle primarie del... No, l'idea che mi sono fatto è che intanto la Bordoli, credo che la partita si gioca tra la Bordoli e Gaddi. Gaddi, diciamo che lui si è gestito molto bene personalmente, anche se lui è un complice dei disastri che ha fatto la Giunta Bruni, e lui certamente con le mostre si è gestito molto bene. L'altra questione è la Bordoli, che sembra che arriva dalla società civile, eccetera, che si chiama sempre così, ma è uno del sottobosco della politica. Parliamoci chiaro, lei è la presidente del revisore dei conti del comune di Como, non è, diciamo, una persona una verginella, tanto per dire, sotto il punto di vista politico. E noi pensiamo che a Como ci sia anche, dopo aver detto questo e chiudo su questo, a Como c'è bisogno di una questione morale, che io credo, sotto questo punto di vista, voi sapete che sia all'SPT, sia alla Cade Industria, la situazione veramente si pone un problema morale, ma anche le altre questioni. Ma io mi voglio solo soffermare su questo per dire che cosa? Per dire che noi non dobbiamo fare un'alternanza al PDL, noi dobbiamo fare un'alternativa. L'alternativa vuol dire che noi gestiamo le cose in una maniera onesta, pulita e trasparente. Perché lo dico? Perché nella Cade Industria c'era, nel Consiglio di amministrazione c'era un dirigente del PD anche, sotto questo aspetto. Voi lo sapete. Allora, io credo che se ne doveva accorgere, o perlomeno doveva fare la sua parte, uno che era messo lì dal partito proprio, doveva essere espresso dalla minoranza, ma fece un colpo di mano Gafuri e mise lì Vivarelli, che era l'ex segretario cittadino di IDS, per logiche loro interne. Ecco, questo. Poi la stessa cosa all'SPT, c'era dentro il consigliere Ballabio, che era della Margherita, eccetera. Cioè, voglio dire, bisogna, l'alternativa deve essere che noi non ci dobbiamo mischiare, voglio dire, di fronte a una spartizione che sono queste le aziende municipalizzate o partecipate. Ecco, la questione morale è importantissima. Io volevo terminare poi la domanda, perché io mi sono rifatto in questa battaglia, siccome qui tutti dicono io non mi rifaccio a nessuno, eccetera, io invece ho il coraggio di rifarmi a una persona squisitissima, è chiaro, che è stata ripresa una sua intervista che ha fatto nel 1981, vi dico questa data proprio perché sia importante che si sappia. Nel 1981 Enrico Berlinguer fece l'intervista sulla questione morale a Eugenio Scalfar. Questo è nel 1981, cos'erano i partiti, come l'aveva vista Enrico Berlinguer. Per noi comunisti la passione non è finita, ma per gli altri non voglio dare giudizi e mettere i piedi in casa altrui, ma i fatti ci sono e sono sotto gli occhi di tutti. I partiti di oggi sono soprattutto macchine di potere e di clientele. Scarsa o mistificazione o conoscenza della vita e dei problemi della società e della gente. Idee, ideali, programmi, pochi o vaghi. Sentimenti e passione civile, zero. Gestiscono interessi i più disperati, i più contraddittori, talvolta anche loschi, comunque senza alcun rapporto con le esigenze e i bisogni umani emergenti. Cioè, in sostanza, Enrico Berlinguer dice queste cose qui 30 anni fa. Io credo, mi sono ispirato a lui sul punto di vista della moralità e credo che continuerò su questa strada. È chiaro che io non, se mi imbatto rispetto a delle questioni che sono state questioni di tipo SPT, eccetera, non guardo in faccia a nessuno, non guardate in faccia a nessuno. Come anche sulla questione del muro. Necessitava allora di fare quel passo, di firmare tutti i 21 consigliere comunale, non si è fatto. Io credo oggi quei consiglieri hanno una grande responsabilità, perché potevamo fermare quei lavori in un momento che era anche possibile magari tornare indietro o risistemare, perché sappiate che il centro-sinistra 5 anni fa si era presentato dicendo no alle paratie, ma sì allargamento lungo lago, sì convogliare le acque sporche e quant'altro nel depuratore, eccetera. Una domanda sulle distanze e differenze, opposti ovviamente al centrodestra, ma anche distanti dall'attuale centro-sinistra, per come lo conosciamo. Nel concreto, quali sono le tue differenze proprio concrete rispetto a chi si candida, al punto che si candida per andare a gestire? Diciamo su due o tre punti, così ci capiamo. Intanto noi sulla questione Ticosa diciamo che lì va interrata la strada, va creato un tutt'uno tra il quartiere San Rocco e la Ticosa. Dobbiamo costruire zero in questa città. In sostanza, Lucini sta dicendo nella sua campagna elettorale che una parte può essere edificata. Noi diciamo che lì, se deve venire qualcosa edificato, deve venire per la collettività in termini attività ricreative e quant'altro, eccetera. Questa città per i giovani, per esempio, non si è fatto niente, lì può essere un momento per fare qualcosa per i giovani e per gli anziani dentro questo quadro. È ricreativo. In sostanza noi diciamo che va interrata la viabilità, sotto lì fare dei dei, come si chiamano, dei posteggi per togliere macchine a raso. Cioè la politica che noi intenderemo è vivere in una città diversa. Cioè le macchine a raso devono essere poche. Le macchine devono essere, deve essere più vivibile la città. Una è questa, l'altra l'avete vista anche voi. Io sulla cittadella dello sport ho votato a favore l'accordo di programma. Voi sapete che il PD su quello ha votato contro, cioè sono stato un po' si sono astenuti. Si sono astenuti con un'argomentazione che ve la dico, era quella di dire che il 5% per edilizia popolare era poco. Ma siccome l'accordo di programma non riguardava quello, riguardava l'accordo tra Infrastruttura Lombarda, l'ASL, Sant'Anna e Comune di Como, riguardava se fare la cittadella sanitaria lì o no. E lì si andava votata, non andava regalata una parte del centrodestra questa cosa. E io per quello mi sono battagliata affinché cambiassero parere e non l'hanno fatto. Purtroppo, io dico purtroppo su questo. L'altra questione sanitaria. Sì, esatto. Cioè, no, punti diversi. Io sono più chiaro su questa perché Lucine stesso crede che lì abbia fatto un errore. Perché lui, essendo un tecnico, non mi permetto giù cappello, ma però in quel caso lì ha fatto un errore, perché lì si votava non il progetto, perché quel progetto attuativo deve venire in consiglio comunale, deve essere sottoposto, eccetera, ma lì si votava un'idea di fare cittadella sanitaria. E quel monoblocco lì è stato salvato grazie anche alle nostre iniziative. L'altra cosa, per esempio, sulla cittadella dello sport. Cittadella dello sport, il PD nel 2007 proponeva di fare la cittadella dello sport. Io ho proposto, io insieme alla Federazione della Sinistra, è chiaro quando dico io perché ero presente solo là io a votare, ma in sostanza noi abbiamo proposto che la cittadella dello sport ci vuole per la città di Como, perché ci vuole strutture efficienti, ci vuole strutture capaci di accogliere i giovani, capaci di dare un servizio alla città, le piscine e quant'altro, ma non in quell'ambito lì. Io la visione della città che abbiamo preparato, per esempio sulla cittadella dello sport, noi abbiamo detto apertamente in consiglio comunale che noi per esempio poteva essere fatta vicino alla stazione di Breccia, la stazione delle Nord a Breccia, di fronte alla cittadella dello sport, ma non è stato ecco. Il PD nel 2007 diceva sì, bisogna fare la cittadella dello sport lì, in quel posto lì, e poi dopodiché, adesso siccome si doveva votare, siamo sotto la campagna elettorale, ha votato contro. Ecco, io non vedo che si amministra la città con questo tipo di atteggiamento. Bisogna saper dire sì anche quando, voglio dire, non è opportuno. Ecco, allora, io credo che la città ha bisogno di un modo diverso di affrontare le cose. E noi ci proponiamo su questo aspetto. Poi, dopodiché, saranno i cittadini a, se vogliono, valorizzare queste cose. Grazie. Sulla questione morale, fattivamente, l'intervento sulle partecipate, sul media delle partecipate. Allora, questa noi proporremo, perché poi faremo una conferenza stampa con tutti i candidati. Tra l'altro abbiamo già pronto, anzi, abbiamo tanti giovani, abbiamo la lista dobbiamo togliere qualche disponibilità che c'è stata in più perché 32 abbiamo tante disponibilità. Dobbiamo selezionare le opportunità sotto, poi noi abbiamo chiesto la disponibilità alle persone. Beh, per la prima volta in città abbiamo avuto tanta disponibilità, tre volte abbiamo fatto fatica. Quanti li avete? Com'è? Attualmente? Sì. Attualmente sono 35. Scusa, la domanda era? Nelle partecipate, un'idea semplice che sarà dentro anche nel nostro programma. Come vedete, io ho già qui una bozza, ma stanno lavorando tutto il gruppo, un gruppo collegiale di una quindicina di persone che stanno lavorando sulle proposte che arrivano, stanno convogliando le proposte e metterle insieme. Beh, noi diciamo una cosa molto semplice sulle partecipate, diciamo basta consigli di amministrazione. Noi diciamo che se il sindaco, facciamo l'esempio, se il sindaco è Supino Donato, che dà la delega a un assessore alle partecipate, sarà lui a determinare insieme a un direttore, a un dirigente di queste partecipate, scavalcando i consigli di amministrazione. Io so che non è una cosa che puoi fare da oggi o domani, perché bisogna cambiare gli statuti delle aziende e quant'altro, perché sono previsti i consigli di amministrazione. Questo è l'unico modo per tirar via i trombati dalle aziende, delle aziende pubbliche. Perché avete visto, D'Alessandro si è dimesso da assessore, è andato a fare il presidente della CSM, Caradon è andato a fare il presidente alla TM, Colombo è andato a fare il presidente alla Como Depur. credo siano abbastanza gli esempi, non vado avanti. Allora, in sostanza voglio dire, noi scavalchiamo i consigli di amministrazione, devono rispondere alla città, rispondere direttamente alla città, un direttore di un'azienda pubblica deve rispondere direttamente alla città, che la città deve essere l'assessore o il sindaco, che ne hanno le deleghe su queste. E loro devono essere, non come è stato sull'SPT o sulla Cadindustria, va bene, una fondazione, ma però sull'SPT per esempio no, è consiglio di amministrazione che decide, ma quello decide anche a nome della collettività della città. Allora questo bisogna riposizionare questo. È chiaro che questo viene fatto nell'arco del mandato, ma io sono per scavalcare i consigli di amministrazione. A un eventuale ballottaggio, se ce l'andate voi, ve lo auguriamo, se ci vada qualcun altro, si porrà il problema di poi sostenere qualcuno o essere sostenuti da qualcuno. Allora, come vi ponete? Allora, intanto non siamo gli unici che, voglio dire, noi diamo una responsabilità enorme al PD, non tanto a Mario Lucino. Io lo dico perché Mario Lucino, lo sapete, io ho un buon rapporto e la persona a modo. È il PD che non è stato capace di fare coalizzare tutti intorno a una persona. Cioè, in sostanza, noi corriamo da solo. Mario, Molteni e Mazzorato corrono da solo. Il PSI domani decideranno come fare, se corrono da solo, eccetera. Italia e Valori mi sembra che stanno cercando di commissariare dal regionale a quella cittadina, per andare col PD vogliono forzare su questo. Io non voglio addentrarmi su questo, voglio dire solo questo. Cioè, in sostanza il PD ha fallito come punto di riferimento di un centro-sinistra, ha fallito. E questo fallimento io lo ascrivo solo a una sola persona, si chiama Luca Gafuri, che lo fa in un modo autoritario la gestione di questo partito. Allora, questo, io non mi voglio addentrare dietro questo, io credo che questo partito è un partito che va rispettato proprio per il consenso che ha, ma io credo alla gestione come un po' anomala. Noi a Cantù, però aggiungo che noi a Cantù e a Erbe stiamo lavorando per un centro-sinistra e siamo già in una buona posizione. Quindi non appoggerete Mario Lucino in eventuale ballottaggio qualora lui... No, abbiamo detto che noi, qualora è lui o qualora sia un altro, visto che andiamo così, è chiaro che a Como oggi si parla solo al 100%, si va al ballottaggio con la disarticolazione che c'è. Noi metteremo a disposizione la nostra forza, lo voglio ripetere, la nostra forza che ci daranno gli elettori, metteremo a disposizione la nostra forza per mandare a casa il centrodestra. Però è chiaro, i nostri voti saranno voti pesati sul ragionamento che abbiamo fatto prima, di chiarezza, di trasparenza, e non chiediamo posti, se abbiamo delle responsabilità ce le assumeremo, noi non mica dobbiamo non abbiamo mai fatto un ragionamento di posti, noi ce le assumeremo questo, però se c'è qualche responsabilità. Pertanto noi vogliamo lavorare finché il centrodestra va a casa, perché questa città veramente è stata violentata da questo centrodestra. Rispetto alle primarie del centrodestra, che sono sento abbastanza unico, c'è due cose. Innanzitutto, se c'è un avversario che lei non si vorrebbe trovare con lei. E la seconda cosa, ai vostri elettori, dite qualcosa, perché voi sapete che quando sono state le primarie del centro-sinistra, il centro-destra diceva. Allora, ti interrompo subito. Se dovesse passare una logica di questo tipo, tutto quello che ho detto fino adesso di onestà e di trasparenza mi sembra che non va da nessuna parte. I nostri elettori non vanno mica a votare per il centrodestra, cioè il centrodestra che si faccia le sue primarie, che faccia come noi su questa cosa qui. Non vogliamo intaccare, noi siamo rispettosi della democrazia degli altri. Io, mi fa piacere che fanno le primarie, ma tenete presente però le primarie ormai sono anche superate da questa cosa. Perché lo dico? Perché le primarie, avete visto anche quelle del centro-sinistra, non sono state primarie di programma che noi avremmo voluto partecipare. Si sono presentate quattro persone che sembrava più una sfilata di persone, così se è più bello, più brutto, è donna o maschio, eccetera. Cioè, in sostanza, noi ci interessava mettere giù alcune linee guide per dire, allora voto per uno o voto per l'altro. Non è stato possibile. È la stessa cosa quello che sta avvenendo nel centrodestra. Allora, le primarie, hanno un senso se tu al cittadino gli presenti la persona, gli presenti una squadra, gli presenti anche una tua proposta politica. Invece questo non è avvenuto. Voi vedete che Mario Lucini ha formato delle commissioni per formare il programma, cioè dopo che lui ha vinto le allora io la domanda che faccio: chi è andato a votare le primarie, chi cosa ha votato? E questo è il punto fondamentale per capire cosa valgono le primarie oggi. Allora io credo che per una fase politica è stata importante le primarie, io credo che ci dobbiamo riappropriare i cittadini, riappropriare la partecipazione non solo alle primarie, ma una partecipazione continua. Quello che abbiamo fatto per esempio in questo mandato in Consiglio Comunale è stata una partecipazione continua dei cittadini, il fatto di essere collegati con i cittadini che venivano su per le varie problematiche a protestare eccetera, io credo che e questo è il modo che possiamo noi essere vicini ai cittadini, se no siamo chiusi nel palazzo e ognuno fa quello che vuole, anche quello che io credo che se allora i cittadini invece fermassero in piazza vicino alle paratie fossero venuti su e sapere, domandare a chi non si è reso disponibile a dimettersi, io dico di quelle del centro-sinistra, date per intenderci, a dimettersi, io credo oggi avrebbe qualche problema a presentarsi agli elettori. Ma siccome questo si ragiona sempre, le cose che si fanno oggi, domani si dimentica, noi pensiamo di non dimenticare questo, perché la città ha avuto una grossa ferita, crediamo che sia è un problema grosso, e pertanto io credo che le responsabilità sono tutte del centro-destra. Però il centro-sinistra poteva mandare a casa Bruni nel 2009. Prima di scusa, come si dice la prima volta la domanda che le faccio è la mostra, okay. Annunciata 3 giorni fa, è una mostra un po' strana perché rimocca le periodi elettorali. La seconda cosa è che, se non ricordo male, lunedì in Consiglio Comunale è emerso il fatto che... Sulle mostre, no? Perché volevo dire una cosa sulle mostre. È emerso che quest'anno voi probabilmente andrete al voto con un bilancio, che però sono riuscito a vedere, per cui, come dire, sì. C'è... potrebbe esserci una profetta avvelenata. Certo, utilizzare, diciamola chiaramente, utilizzare il bilancio del Consiglio Comunale, dei cittadini, per farsi la campagna elettorale. È questo che dobbiamo scardinare, noi dobbiamo queste cose, le dobbiamo scardinare, i cittadini devono sapere che c'è qualcuno che si propone a non fare questo e lo dice e lo fa. Questa è stata la mia forza che è stata in questi 5 anni in Consiglio Comunale, ho fatto quello che ho detto. Ecco, allora io sulla questione delle mostre, per esempio, io i candidati delle primarie del PD, c'è stato qualcuno che ha detto le mostre non vanno fatte. Allora adesso mi dite Lucini come fa a fare le mostre, che lui dice che le mostre le vuole fare. Io vi dico che le mostre bisogna farle, bisogna però realizzare un bilancio autonomo che non pesa tanto sulla collettività, perché ci sono le risorse per poterlo fare. Io a Gatti gli ho sempre riconosciuto una sua capacità, è una sua capacità di fare le mostre, è una sua incapacità di gestire economicamente le mostre. Io per esempio l'ultima che ho detto, cioè per me suona veramente, grida vendetta il fatto che si facciano i fuochi d'artificio nei momenti difficili che il comune non ha neanche i soldi per prendere la carta igienica, e voi lo sapete questo. Ciao, grazie. Ah, scusa, no, siccome l'avevo anche già detto prima, le paratie, noi oltre che abbiamo detto che è un imbroglio, adesso mi ripeto un attimo, oltre che abbiamo detto che è un imbroglio il fatto che si diceva che si voleva difendere a Piazza Cavour dell'esondazione, ma la sostanza è che devono alzare il lago di 70 centimetri per vendere l'acqua a valle. Comunque in sostanza un imbroglio per questo, e siamo di fronte a una situazione che non sappiamo quando finiranno i lavori, quando la piazza sarà ridata ai cittadini, e questo veramente si lavora in una maniera confusionaria. E l'altra questione è che non sappiamo neanche la cifra finale che dobbiamo spendere per terminare questi lavori. E poi ci sarà un 100-150 mila euro di manutenzione annua rispetto alle paratie mobile e rispetto alle paratie idrauliche. E questa non è una cosa di poco conto, che bisogna mettere nel bilancio queste cose. In sostanza, se c'è una possibilità che le paratie non si facciano, perché è chiaro, quelle importanti, le paratie, diciamo il cuore delle paratie sono quelle idrauliche davanti a Piazza Cavour. Siccome ancora, bisogna vedere se sono state ordinate, bisogna vedere se è tutto questo, se c'è una sola possibilità per far risparmiare i cittadini, noi la vorremmo realizzare questa possibilità, e ridare più presto lungo lago ai cittadini. Io volevo chiedere una cosa. Siete arrivati appunto presentandovi da soli, correndo da soli, proponendo Donato Supino come sindaco, però ovviamente si è arrivati qua dopo un percorso anche di confronto con altre liste, altre forze politiche. Io volevo chiedere perché poi alla fine, e magari sapere anche con chi c'è stato questo dialogo, non si è arrivati a un'alleanza, un'unione per presentarsi magari più forti alle elezioni. Beh, cioè, anche perché affinità con qualcun altro, anche magari con qualcun altro in consiglio, cioè... Ma esatto, io credo che, per esempio, per quelli che erano presenti in consiglio comunale in questa legislatura, le affinità le avete viste con la Molteni e Marzorati, abbiamo fatto parecchie iniziative insieme. E sostanzialmente io credo che non ci sia problema se dovesse andare la Federazione della Sinistra al ballottaggio, dovesse andare la Marzorati Molteni al ballottaggio, un accordo, non c'è nessun problema. No, loro hanno scelto di, proprio è qui il fallimento, perché hanno fatto, l'unica osservazione che faccio a queste due persone, che sono persone per bene, l'unica osservazione che hanno fatto tutta il buon fascio dei partiti. Cioè, in sostanza, loro hanno detto che i partiti hanno fallito e pertanto noi vogliamo andare da soli. Io credo che hanno ragione in gran parte di questo, però non possono fare tutto erbo facile. Chi è che ha fallito sono i due partiti guida, tant'è vero, diciamo, sapete, il PDL si è sfasciato in Consiglio Comunale, ma anche il PD non è che è stato meno, sebbene non aveva responsabilità, voi sapete... le varie posizioni eccetera, noi vediamo ultimamente alcuni consiglieri che sembravano prima che cose, adesso stanno zitti pur di avere un posto, perché ci sono anche queste cose. Mottola è uscito dal PD e non è una cosa di poco conto. Mottola mi sembra era uno dei più votati del PD, ecco, cioè in sostanza questi partiti hanno fallito, è chiaro che ognuno si chiude dietro, cioè si tenta di andare dietro a liste civiche quattate. Io credo che le liste civiche, senza voler fare nessuna analisi teorica eccetera, le liste civiche sono iniettate il fallimento di questi partiti, che non sono più punti di riferimento per la città e per gli schieramenti, non sono punti di riferimento. A Como abbiamo questa disgrazia soprattutto per il centro-sinistra. Quindi voi vi sarete pure alleati con Lista per Como? No, noi volevamo fare un confronto, noi abbiamo avuto un scambio di opinioni, cioè voglio dire eccetera, ma noi volevamo partire già con uno schieramento. Mi sarebbe piaciuto che Mario Lucini, tanto per intenderci, fosse un po' più autonomo sotto questo punto di vista, cioè che tagli quel cordone ombelicale che ha con Gafuri, cioè in sostanza non si va a nessuna parte su questa strada. Allora io credo che se il Mario Lucini in prima persona si decida di ragionare per creare una coalizione per battere il centrodestra, io credo che ci sono possibilità, non ho la sfera magica, io credo che ci sono possibilità per trovare un'intesa, perché non siamo lontani sotto alcuni punti di vista. Beh, è chiaro che se ragioniamo sulla lottizzazione e quant'altro, come è stato fatto sulla Cade Industria a mettere lì i Bivarelli, vabbè, io vi ringrazio a tutti, veramente state molto gentili, sapevo che eravate impegnati anche per altre conferenze stampa, va bene. Sì, esatto. Bene, grazie a tutti.